bianco marmo eletto, leggiadro sul di giovanetti errandi. Io quello che dorme ai papaveri unite, ledere fresche a lui fanno corona. E tu credi risciolto e non si cangia, o per pensier si bianca. Carzo l'uccide, l'altro che presso lui, con le fiero ciglio, guarda le soglie della reggia e dice.